Ciao Mari. Ciao Mari. Ce n'è uno qua? Dove qua? Ce n'è uno? Tonino? Manuele? Gio Maria? Ce n'è uno? Chi è? Ti ascolto basso, chi è? Manuele? Ce n'è uno qua? Pronto? Uia, oggi buro gaccio. C'è qualcuno qua? Tanto fa caldo. Ci sei qua? Claudio? Claudio, ci sei? Ci sei? Claudio? Vabbè, ma noi ci sei. Ci sei, Claudio? C'è qualcuno? Vabbè. Inizia con una cutta, già menti. Ci ti già me non rispondi. Non ti sentivo. Questo non mi sentivi è una cosa brutta, eh? No, nel senso che chiamavo e non rispondeva nessuno. Devo dire, mi hai chiamato quando sono andato a fare la pipì. Non vedi nessuno. No, a nessuno senti. A nessuno, non c'è neanche nessuno sul 10. Ma lì non c'è mai nessuno. Ormai la 27 è moscia, lo sai. Né nel 10, nel 23 non ve nessuno. E infatti ho messo in vendita un po' di radio io, tanto vanno a imbagliare. Tanto vanno a imbagliare, prima che rimanga in Chivi, 7004, il tribanda, quello base, della ICOM, un bel materiale c'ho questo. Organizzando e mettendo in vendita, tanto per rimanere in Chivi diventa l'armadio, è meglio me lo porti in dinà. Appunto, cosa ne va? Tenere dentro l'armadio, cosa ne va? Tanto va di dove va in dinà, sì. Proprio dentro l'armadio, perché è dentro la scatola, capito? Vabbè, da dire come te, digita nel telefonino ICOM 7004 e guarda la vecchia marradio da tenere dentro l'armadio. Favolosa, tribanda, 100 watt in VHF, c'ha 100 watt in banda laterale, anche di più ne dà in HF, poi c'ha i 6 metri, 50 mega, è una bellissima radio, c'è anche le VHF, quella da 100 watt, bellissima radio, lampada dentro l'armadio, veda dagli ammini rugabbo, canti di nai pesi, ma c'ha VU pure o... Okra. No, c'è solo le V, però è base, mi sono di base, grande, il doppio del 440. Cazzo, vai tu. Guardatelo, digita IC 7004 della ICOM e guarda a vedere, vai da dire come te, se mi non ride. È un bel grande, una bellissima radio, comprata nuova, gas, lina lampadi, usata 4 volte e messa dentro l'armadio, nuova. Ne ho. Ma ne ho, No pa vantami, Manuel, ma ne ho un bel. Sono indeciso cosa fare veramente. Ci puni tutto in blocco e fammi tutto in dinà e tenermene una e boh. Sicuramente avere tutte queste radio, boh, io anche se avrei avuto soldi per comprarle. Per prendere radio e tenerli a romba dentro all'armadio, tanto vari non avevo manco biliardo. Sì, lo so, Manuel, ma quella fa parte del sistema amatoriale, capito? Quella che l'avevo presa perché c'aveva le VHF a 100 watt, poi mi è capitato un 275H, sempre della ICOM, 100 watt, monobanda, e mi ho preso anche quello, poi l'820H, bibanda, tutti base che costano un sacco di soldi, se hai capito, sempre VU, base da 100 watt, poi di HF, perché anche il 7004 è HF, ma c'ho anche 756 Pro 2, c'ho lo Yaesio, 430, 440, linee complete, cosa di linee complete? Lascia perdere, il 780, lo stesso della Kenwood, grande, base, tutti base, io non agio veicolare. E vabbè, a parte amatoriale, Emanuele devi essere aggiornato, quando io ero in voga le usavo tutte, adesso non uso più niente, capito? Quindi non serve a nulla avere tutta l'età cosa. Appunto, se lo va sopra mobile, vedrai avanti che radio. Tra l'altro sono tutte spente già dal mese di metà giugno. Da metà giugno sono tutte spente, capito? Quindi non lo so cosa è successo, cosa succede, che uso, così è tutto staccato, senza antenne, senza alimentazione, senza nulla però. Vabbè, no, 7.400 me lo vendo. Oh, 7.400 lo vendo, la grande, vendo un po' di roba, adesso faccio tutte le foto, c'è un frequenzimetro professionale, cazzo americano, che se lo vedi da sotto è più o meno di un 440. Cazzo, vai tu, vivo una gamma, l'avevo battenessi in radio, solo battenessi in radio. Vabbè, io infatti c'ho una stanza mia, ho la base da 2,50 m una e 1,50 m l'altra L, quindi venite di roba soppalcata, tutto fatto dal falegname, cioè mi ha fatto tutto Giulio a me, tutto bello in ordine, no? Non ha già armadi, io sarro l'armadio e a voi apro l'armadio, mi bosio e fa vedo con le ante dell'armadio. No, ma adesso oggi che oggi, vabbè, lascia perdere a te che tu sei radioamatore, ma uno che è nella CB, cosa gas ne vai di 50 radio, tutti nella mensola e la bui, non ne date manco uno, usi solo quello lì, basta. Cosa cavolo ne fai? Non ne fai proprio niente, sono soldi tutti quanti buttati al vento. No, io quando sono a Sassa li accendo tutte, perché per ogni radio c'è un'antenna, tranne una HF che li alterno, perché è la direttiva, è tre elementi, quindi lavora su tre frequenze, poi c'è l'altra di 50 che è attaccata a un'altra radio, poi c'è le antenne V e U che le uso tutte, io sono a Sassari in 4-5 frequenze in contemporanea, le radio sono tutte accese, tutte collegate e tutte sotto antenna, perché così deve essere quando fai attività amatoriale, capito? È chiaro che essendo solo CB mi basterebbe una linea completa di 440, radio, alimentatore suo e colonnina, che c'ho tutto, l'MC60 si apposta e fai tutto, non c'è problema, capito? Giusto per avere una radio seria, e se no un bel baracchino, base, via, ma una barò, quindi la stendo tutti di lì e boh, capito? E vabbè, pazienza, soldi buttati e via. E se no non fa vedere le antenne. Antenne proprio da giro lampado, quasi 3.000 euro e tutte lampade in altra gabbiatura, interrami. Fatta gita a Tonino, prestami la moletta, non me la vuole prestare, chissà che intanto la vuoto tutta a pezzi. Ma ti volevo dire, Ocla, ma quella là sei riuscita a modificarla, quella piccolina? Sì. Modificata, ha messo l'attacco per la radio, addirittura anche connettore N, adattatore N, c'ho tutto. Ma non ricevi una, non ti dico cosa, nulla ricevemi, niente. Evidentemente non è la frequenza adatta, nulla, ho provato a metterla anche un po' più sotto in frequenze amatoriali, niente, nulla, mentre invece quella che c'è a Tonino, quella nell'avanzata della finestra, attaccata a una piastra in ferro, riceveva anche l'Alta Italia, questa non riceve niente, neanche il locale riceve. Cazzo, se l'altro giorno quando l'ho sentito con quell'antennino lì, cazzo, disegnava la via, è andata a Luaconi. Cazzo, mi arrivava a 9, arrivi a più pochi, con chi sta antennino, che con chi si arriscono che la Bibbia accende. Guarda, oh Manuè, hai visto quella staffa che abbiamo messo, hai visto quanto è bassa? Se io lì le metto quella base magnetica così attaccata, le metto un giro di nastro per non spostarsi, no, quello grosso che c'ha lui, e la fa arrivare, e la prova, fa le prove, prima con quella grande, e poi con quella sono sicuro che esce meglio quella piccolina. Bassami, se la voi tirassi in un tubo, come ha fatto Massimiliano, mi arrivava quando parlava qua da Santiago 9, c'era uguale a quella, da lì punti. Ti sto dicendo che è favoloso, io con quella antenna lì, sopra la cappotta, quando lavoravo sopra la furgonetta, quando ero a Giave, in frequenza amatoriale, senza ponte, frequenza libera, 145-525, arrivavo a segnale 9 a Vittorio a Sassari. Cazzo, figurati, ui. No, ma si vede che esce bene con l'antenna lì, perché come l'ho ascoltato, con la discona arrivava più basso. Ma non valgo, no, anche Marino mi sembra l'aveva messa per provare. Non vado un accidente, infatti gli ho detto, sono le antenne che non valgono una mazza. No, per uscire bene in questa frequenza devi mettere una X50, anzi ti dirò, se trovi una 30 è anche meglio, perché? Te lo spiego subito, l'antenna più corta è e più va bene, capito? Quindi come B-banda, perché altrimenti devi comprare l'antenna sua specifica, ma come B-banda amatoriale, la X30 per questa frequenza è ideale. Esce una canonata, io c'ho quella lì, la 50 piccolina, dove sto parlando adesso, a Sassari, che c'ho la 510, che è quella grande, la 5 metri, quasi 6 metri, con quella i segnali sono molto più bassi rispetto a questa, perché questa è più corta l'antenna, capito, riceve meglio. Io sto usando infatti la 50 come antenna, sto usando la 50, adesso appena c'ho un minuto libero salgo su, li metto anche, perché mi sembra un po' bassa, li metto un 2 metri di palo e le latito su un po'. Io sto usando quella lì, c'ho quella lì solo, quella della Diamo. I migliori sono per questa frequenza, più corta è meglio è, perché se metti quella lunga senti, ma senti più basso, capito? Quelle vanno bene per le VHF, ma per le U l'antenna vuole corta, perché è corta. Se tu vedi quelle U monobanda, sono molto corte le antenne. Basta guardare quelle dei portatili, che sono la metà di quelle che si usano, capito? Vabbè, infatti a Torino bisogna fare le Bugatti Ghiccio di Scone e farle bigliare una X30. Costa una trentina di euro, 30-40 euro, una cosa del genere. Mettendo quella lì vedrai come migliora la grande. Sì, si mette una di quelle lì, la diamo e va perfetto. Anche una 30 va bene, a Vuglia. Io devo chiedere a un amico se ce l'ha ancora, la stava vendendo a 30 euro, nuova. La dovevo prendere, poi ho lasciato perdere perché non mi ricordo perché. Non lo so, se ce l'ha ancora me la faccio dare. Se ce l'ha ancora me la faccio, intanto c'è una radio sua qua a casa che lui non sta usando, ma anche quella dentro l'armadio. Uscirò il telefonico, ma quando basta pigliarti chi c'è la radio, intanto non la tratti, ma l'avevo data l'anno scorso per campagna, figurati. E ce l'ho ancora io, non è mai passato a prendersela. Ci sentiamo spesso, ma no, mi serve, la tieni la riga, lo so che è in buone mani. Dove fai, dico, chi si accusa, dico, se c'ha quell'antenna me la faccio dare. No, vanno bene quelle antenne lì. Io l'ho messa a casa, io quando ho avuto l'antenna per fare in fretta, ho trovato, era tutto già su, ho trovato un palo di antenna, ce l'ho agganciata lì, solo che il problema è che rimane proprio vicino all'antenna del televisore, capito? Ocla. E ce l'avevo il palo, solo che non c'avevo voglia di scendere giù, prendere il palo e tornare a risalire nella botola. Allora giubilato, la giaganza dei rivi, 10 minuti e niente. E quello che mi frega, mi gira le scatole, che rimane proprio a fianco, proprio attaccata all'antenna del televisore, dai. Adesso appena ho 2 minuti, settimana prossima vedo un po' di mettergli un palo di 2 metri e almeno le latito su. Sì, vedrai che poi quelle sono antenne molto particolari, Manuel, che devono stare almeno a 2 metri dal piano di terra. Se la metti sul tetto, 2 metri dal piano, se la metti da terra almeno 2-3 metri dal piano di terra, capito? Irradiano benissimo e vanno molto bene per questa frequenza, sono le migliori. Ti ripeto, più corta è la 30 e la 50 sono le migliori per questa frequenza. Poi puoi mettere la 200, la 300, quelle sono un po' più alte, però sino ad arrivare alla 510, che è quella che ho io, che è la più grande, capito? Anzi, la più grande è la 7000, veramente. Va bene, insomma, Donino si è fuggito, dai, Donino non c'è più. Non lo so, sarà andato a fare qualche commissione. Non lo so, perché non l'ho sentito in tutto il giorno, neanche stamattina l'ho sentito. Noi ci abbiamo scambiato il buongiorno stamattina presto, io mi alzo presto per innaffiare, per fare, sistemare i cani. Abbiamo mandato il buongiorno come fa sempre. E poi non ci siamo più sentiti, capito? Però può darsi pure che sia andato dal medico, che c'era oggi, di mercoledì, faceva la ricetta poi sulla medicina, non lo so, non l'ho sentito. No, dice che te la mandavano tramite me, e poi andava in farmacia e me le portava, dice, quando ci vado a lavoro, ma evidentemente adesso non gliel'hanno fatta ancora. Baricrano. Sì, sai, magari al lavoro ha avuto qualche intoppo, qualcosa, lo si è trattenuto, è impegnato, di solito già entra lui a quest'ora, che io lo so. Mica, sono gente manco vinti guaci. Quindi, sicuramente è quello lì. E vabbè, dai, già ci farà sentire. Prova a telefonarlo a vedere se ti risponde. Aspetta un attimo che provo a chiamarlo a vedere. E chiamalo, se no lo chiamo io, chiamalo tu allora, dai. Non risponde, E se non rispondi è cansato. E starà facendo qualcosa, se no avrebbe già la risposta. Se non risponde allora è agganciato. Ehi, raga l'agganza. Allora. No, ma mi sembra che me l'ha detto comunque, che doveva portare il tavolo, venivano a prendere, non lo so, qualcosa mi ha detto, adesso non me ricordo. O mi ha detto che lo portava via prima di venerdì comunque. Capito? Forse poi si è andato al nero, non lo so, può darsi. Che dal lavoro sia andato direttamente ad Olmedo. Vabbè. Ci farà sapere, dai, stasera. Ma va a farsi intendere, non lo so. Non c'è nessuno, né qui né in 27. Ma non lo so se sono in qualche altra frequenza, io non posso seguirli perché c'ho il baracchino, capito? E poi c'ho il ricevitore piccolino. Ma mi sembra che non siano sul 10, siano in un altro canale. Alfa però, perché te l'ho detto, c'era una portante poco fa. Vabbè, nel 23 non ho sentito nessuno, esce a vedere. Nel 10 alfa, e che canale è 10 alfa Ocla? 11 alfa, è 27095 mi sembra. Se non c'è la sintonia continua al canale alfa, i baracchini non ce li hanno. Ui. Alcuni baracchini sì, tipo il Cobra, tipo... Adesso mi ricordo, comunque qualche baracchino ce li ha, canali alfa, ma lo mio non ha però. Cazzo, lei era le bonelle da portante, magari le da bonelle da portante, a Giulio. No, la stavano mettendo a Gianni, infatti da Giulio passava, però da Luca no, neanche da me. Allora a me non mi piace, vado da usci e non ci sono entrato, capito? Cazzo, già che non entra nessuno di frequenza, la voce si può una punta importante. Sì, già da molto che sta succedendo questa cosa, non lo so. Comunque, si arrangiano, io non mi metto più in mezzo, ma noi non voglio starmene tranquillo e sereno, perché già mi hanno attaccato un sacco di volte, mi stanno buttando in mezzo senza far nulla, quindi me ne sto per i casi miei e non mi interessa niente, facciano quello che vogliono fare. Questo è senz'altro, si arrangiano sì. L'ho detto, il primo che mi cerca questa volta mi trova. Cazzo, sempre io, senza entrarvi in luogo, sempre in mezzo arrivati da ieri. Basta, io sono isolato, sono per i fatti miei, non vedo, non sento, non parlo. No, vedi, lì hanno sbagliato, perché se cercano la gente che non sanno proprio chi è, non deve ne fare né nome né nulla, deve ne zicarlo tramite radio e piccarlo balareggi e basta. Se cercano nomi senza sapere chi cercano i nomi, chi dice i nomi, a vanvera non va bene, no. Sì, vabbè, succede sempre così, a intuito siamo sempre andati, sbagli, no, vabbè, a parte quello, di Simone in mezzo c'era medico, così, quindi ho detto basta. Me ne sto per i fatti miei da solo, meglio solo che male accompagnato. Una busca, ti parlo di una trentina, 30 anni fa, 31 anni fa. Non è che avevamo zicato da uno all'altro chi era chi non era. Siamo bacchiuti, ma ci ha mandato Deo e Tonino, siamo bacchiuti con la macchina, siamo bucati, lo va la macchina e macchina, tu canto, eravamo bizzicando, avevamo cercato l'obiele dell'antenna, eccolo qua chi era, eravamo bizzicando in flagrante, fondo scala senza antenna. E così si faceva ai tempi che furono, No, ma invece baracchine in macchina non ne ha più nessuno, Manuel. Tanto stai a punire baracchine in macchina e tutto ha già finito. Bello, è mentre sta mettendo la portante senza di nulla, un attimino che mi hanno telefonato, vedi la macchina e passi. Capito? Orientativamente vedi un po' la zona e rubi si gauge. Però queste cose ormai sono morte. Già siamo morti noi da giudizio. Ho due iatti in radio, poi, vabbè, ti ripeto, facciano quello che vogliono, io no. Non aggiungi né a secca nessuno, né a secca nessuno, mi. Se si può parlare, parlo, se non si può parlare, pazienza, me la fottinuta. Ah sì, ma io non lo so, cazzo, già che la vita è quello che è. Da bu si buonerà a fare casino, buono in radio, cazzo, siamo allora proprio alla frutta, siamo proprio alla frutta. Sì, la frutta l'abbiamo passata, ma noi siamo allodozzi. Lo so, purtroppo è così. Vabbè, pazienza. C'è gente che nasce solo per rompere i coglioni, quindi non è che ha molto entusiasmo della radio come me e come tanti altri. Capito? Purtroppo, se è così, è così. Ma io l'avevo detto quando eravamo tutti a casa e siamo stati rinchiusi per quasi 2 mesi. Quando è entrata tutta questa gente all'improvviso qui e là, è tutta gente che non è che ha improvvisato e che si è messo il baracchino apposta, è gente che già ce l'aveva, ascoltava e non entrava, ed è chissà niente che continuando a mettere la portante, sono sicuro al 100%, perché altre soluzioni non ce n'è. Buonasera, mi. Buonasera. E beh, come va lo spingisco? Lascia perdere, Torino. Ciao, Cla. Ciao, Torino. Ma che fine hai fatto? Ti abbiamo chiamato, non rispondi, boh, eravamo preoccupati. Allora, io sono uscito da Trabacco. Sono andato a prendere la mia 50, la mia cliccherina, che sono qua ancora in campagna. Mi sono fatto il pisolino, loro mi hanno pulito anche la casa, tra l'altro, perché con le mani in mano non ci sta. Ma detto, cosa ti preparo stasera? Tu non lo vogliete, mi faccio un'insalata, non preoccuparti. E sono ancora qua fuori il cortile, poi più tardi la compagna. Tutto qua, Cla, questa è la mia serata. Beh, giudito a Emanuele, o è agganzato oppure c'è gente, quindi non può rispondere. Va bene, siamo contenti allora, dai. Se avessi avuto la piscina, 2 tuffi ce li avremmo fatti. Cappa, infatti mia figlia me l'ha detto. Papà, l'altro anno, mi raccomando, la piscina, sennò non ci vengo più, Hai capito? Niente, io quando c'ho compagnia, Cla, a me proprio di accendere niente, neanche questo cavo di coso. Non le passo neanche per l'anticamera. Ripeto, poi accendo giustamente, se non sento gli amici, la prima cosa che faccio è li chiamo al telefono. Perché gli amici sono pochi ma buoni, e giustamente li chiamo. Ho adesso acceso e sapete chi c'è, col PMR, e ho visto che siete in voi e sono entrato. Tutto qua. Cos'è successo? Qualche novità? No, assolutamente. Assolutamente. Ti ha telefonato Manuele, ha detto chiamalo tu per vedere se è a Sassari o se è da qualche parte. Pensavo che eri andato da qualche parte a portare quel tavolo, a fare commissioni, tutto qua. Vai, Manuele. Un attimino che sto un attimo spolverando qua. Beh, adesso spolvera pure me. No, Cla, perché ho acceso e ho ascoltato l'ultimo passaggio tuo dicendo che sono quelle persone che rompono le palle, cioè cos'è successo, per questo lo stavo chiedendo tutto qua. No, beh, le solite persone, io metto una portante in 27, stavo dicendo quello, che questo aggregamento di tante persone che sembrava che avessero rispolverato la radio a causa del coronavirus, invece non è assolutamente vero, è gente che la radio ce l'ha sempre avuta, attaccata, ed è quella che sta continuando a disturbare, questa gente che non gliene frega niente di fare QSO. Prima erano costretti a fare QSO perché erano a casa, a va a vedere che vegenti e sono e mettono e disturbano, capito? Non va bene, questo stavo dicendo. Ma io fuori del baracchino sono un bel po' che non accendo, guarda. A me è fissato con questo portatellino, un volantellino che aveva fatto una bomba, E quindi niente, la prima cosa che faccio accendo sempre questo qua, accendo. Poi se vedo che non c'è nessuno, allora provo a accendere quello lì, a vedere la 27 chi c'è. Ma ho acceso direttamente questo ora, tutto qua. Ce l'ho proprio il portato di mano sul mobile che ho fatto io. E poi vedrai, tu venerdì voglio fare un esperimento. Quella la mettiamo un po' più bassa e fai le prove a vedere chi esce meglio. L'antenna è una canonata. L'ho testata io, se no te l'avrei data, a me no. Non mi piace dare una cosa che non funziona. quella l'ho testata io in macchina, ma anche a casa, nell'avanzare della finestra, nonostante io sono al piano basso, con una piastra in ferro nel marmo della finestra, ricevo tutta l'Italia, l'Alta Italia in UHF, capito? Chiaramente non ci parlo perché non mi sentono, ma io li sento benissimo, il segnale c'è, capito? Va bene, va bene. Ok, no, a Bari anche Giulio, diciamo. Ma non è finito di spolverare, che si vede un biuaro. Aspetta due secondi. Oh, yeah, due secondi. Bobo. Comunque sta parlando il dottore perché si è dimenticato a mandarmi la ricetta e mi sta dicendo se me lo manda la ricetta di quelle in bustine. Che te lo dà in bustine anziché in pastiglie? Eia. E vabbè, è sempre quella, però efficace lo stesso. Io preferisco le bustine perché con il reflusso le bustine, cioè le pastiglie, perché con il reflusso le bustine mi fanno male, capito? E quindi uso le pastiglie, però il procedimento è quello, diciamo, la medicina è quella. Io faccio quando mi sento poco bene che prendo la tachipirina, prendo soltanto quella effervescente in bustina. Perché giustamente la pastiglia è troppo grossa e non riesco a ingoiarla, se la spacco in metà mi graffia, quindi niente, tutto l'ho preso in cosa, dello stesso effetto, la tachipirina e bustina. Sì, ti sento male adesso, come mai? Ma cos'è, scarico? Ma non penso, era tutto un carico, te la dica. Boh, allora ti stai, ma sei davanti all'antenna? Ma io sono coricato. Ah, allora è per quello. Quell'antenna, se vabbè, è che la usi anche in macchina, se non l'avremmo messo una piastra piccolina attaccata alla base magnetica e messo un palettino di un paio di metri, lo sai quanti scivolti anche qui. Ma si può usare sempre quello che avete tagliato voi, di quella pipetta che c'è la piastra là, lo si può fare, tagliare con la moletta e farlo a zero. È vero che ce l'hai, girata al contrario, bravo, girata al contrario si usa la piastra, esatto, entrata dentro il tubo al contrario è usata con la piastra. Sì, si può fare proprio quello, esatto. Certo se si può fare, alla grande si può fare, e come no, si può fare sì, caspita se si può fare, va bene. Sì, so già come fare, guarda, quel pezzo che abbiamo tagliato della curva, capito? Quel pezzo della curva che abbiamo tagliato. Si può fare. Sì, ma là, il cavo è però è corto. Beh, un barelotto e non altre due minuti. Non le fa, non le fa niente. Cucina io, Bravo. Hai detto che ce l'hai, barilotto ne hai, PL ne hai. Allora, il PL ce li ho, mi manca solo il barilotto, perché il barilotto ne avevo due ma li ho utilizzati. Vabbè, già te lo porto io il barilotto, già ce l'ho io. Già ce l'ho io, così rubo un massaggio a motopompa. No, che me lo guarda male. Lascia da male, usa il calore, grossi. No, sei tu che tu... sai mangiare bene e basta. Ah, ma se te ne varia. Ah. Ti gommino. Ma li faccio io e PL, non vi preoccupate. Chi è che mi ha detto ti ascolto? Claudio, mi senti? Sì che ti sento. Dalla tavernetta. Sto uscendo dalla tavernetta. Anche da qui mi senti. Non sto nessuno. Con la posizione che dove sono, c'è l'antenna esterna, ti sento sì, Giulio. Ok. Però a Tonino non lo sento. A Tonino io non lo sento. Emanuele, lo senti? Non lo so se lo senti ancora, no, credo. Emanuele, lo senti a Giulio dalla tavernetta? No, negativo sentirlo, non lo sento. Ma lui mi ascolta. Tu, l'hai sentito, Emanuele? No, io non l'ho sentito. No, non vi sente nella tavernetta. Io organizzo di Giulio. Finita, vedi, dove siete? Non ce l'avate più nel 10, dove siete? Eravamo, solo 11 anni eravamo. Gianni, Brittella. Lì era pulito. Ehi, ecco, siete andati su 12 Alfa perché c'era la portante. Casarella. Non è Casarella. Ehi, è piena di bulloneria. La tappaletta, non la tisifi. No, me l'hai già comprata la baretta. A proposito, la baretta ci fa che è secca di tapparella. No, ho preso l'alluminio. No, no, alluminio, gli annaggiuburi alluminio. Avamo, mi dati la moletta, mazzodonino, carboni, la taglio tutta a pezzi con l'alluminio che ho. Vai, Mazzo Gaibò! Ciao Luca! Vabbè, Toni, mi senti? Già ti sento, io ho l'antennino che sulla finestra, capito? Ma non so che mi dice Mazzo Gaibone a me, io non mi chiamo Gaibone. Magari avessi avuto negozi carbonica. Ah, gli sento, non li fai nulla a ferramenta a carboni, ma stai scherzando, fatelo da una persona seria. Esce Maria gara cosa va lui. Cosa va di armati, viene di attrezzatura, ma attrezzatura nuova, biallatrici, veatrici, mole, tavolo batte la paglia di legno, ma cosa tutto non va, chiavi non ne va vedemo, gacciavitti ancora nuovi entro le scatole, di tutto, fascette, fascettine, in ferro, in acciaio, in gomma, in plastica, e sugas. Vai, ferramenta a carboni, vai! Mi manca l'asse isolante, Claudio. Poi abbiamo rotto un altro isolante, ma regalo 8 rotoli, che misura la voi? Uno mi diceva a me. Cescio Maria, gara cosa va, cazzo. Per carità. Ah, io Giulio, organizzati che non ti sentono. Giulio è andato a organizzarsi. E bello. Ma c'era un portante poco fa nel 10. Non lo sentivo a Gianni io. Ma chi si ammazzi, adesso me ne affutta sai a me. Vabbè, ma non va bene, se uno si vuole fare due chiacchiere a me chi ti aggoggia non mi piace. Allora mi sono passato qua, che c'ho anche questa, c'era Emanuele, ci siamo messi a fare due chiacchiere. A me, quando vuoi portante io non c'entro più, non me ne frega niente, gli ti abriago la niente. Vai Tonino, Tonino, vai! Ehi, cappa. Sì, stavo pronto adesso con... Cos'è detto? Pomodoro, cipriolo e cimenta, queste cose. Ehi, qualche cipolla metti. Cosa? Scusate. Qualche cipolla, bagno a pensare così noi. Ecco, poi ci sono a 50 di cosa mi devi preparare. Mi devi fare già l'insalata così più tardi è già pronto. Hai capito Luca? Comunque, anda bene. Luca, capito hai Luca? No, lo sento flussato. Ma infatti anch'io, e scarico. Poi hai spostato l'antenna, Tony. Tony, pensa di me da Loretto. Forse un po' scarico l'apparato. Un po' flusciato arrivi, ha ragione Luca. Poco fa arrivavi pieno, pieno. Adesso invece si è calato il segnale e arrivi un po' flusciato. Ti sento, ma non ti sento come prima. Confrontate che sei a fondo scala. Sì, vabbè, deve essere radio, deve essere antenna, avemo. Tony, da Loretto, Besardini. Sto usando quello grande. Con l'antenna, vabbè, media, diciamo, ecco, la grande non è qua. Antenna media, però, questo già funge, già si fa sentire. Va bene così? No, ti sento, Tony, è Luca che ti sente frusciato. Ma dove hai l'antenna? Dentro il gas? No, sull'avanzare della finestra. E mettila fuori un po', no, Tony? Se lo metto sopra la piastra, aspetta. Te la metti chissà la piastra che abbiamo fasciato, no? Che ci rimane il pezzettino del tubo, quella girata al contrario, messa dentro un tubo e sopra messa la base magnetica. Sì, sì, quella le va benissimo. Anche la tribuna di Sant'Ennino invece della discona. Quell'antennino scherreggia forte. Su quei sendi in macchina, in V e in U, arrivavo in capo al mondo con quell'antenna. Funziona molto bene. È una buonissima antenna, l'ho modificata io perché l'attacco non era diverso. Ho comprato il connettore da Fusaro, gli ho attaccato il PL, vulcanizzato, direttamente diretto sulla base magnetica, quindi a perdita zero, capito? Oh, mi raccomando, dobbiamo fare un carico che verrà la sera. Se non lo vedi io, ha detto Tonino, io vengo dopo le 7:30, perché prima devo sistemare i cani, non ce la faccio. E già passiamo un Tonino, dai. Passiamo, no, io ho la macchina, però prima devo sistemare i cani. Non posso prima di quell'ora, capito? No, ah sì. Non posso prima di quell'ora, stavo pensando che c'era... No, ma c'ho quei disegni. No, venerdì, sì, già vengo con la macchina mia io. I cani, mia figlia esce alle 5, per quello abbiamo spostato a venerdì, e se no si vuol dormire a capo. No, no, non ti preoccupare, già c'ho la macchina io venerdì. L'importante è che venerdì mattina, cioè venerdì, ci sia qualcosa, capito? Gliel'ho detto a Tonino. Se facciamo il primo, vabbè, la qualcosa ce l'ha già in frigo. Ma se volete le pernette gorgonzola col pesto o gorgonzola e radicchio, bisogna che mi prenda la roba. Oh, come esco adesso? Alla grande. Ho messo la piastra. Luca, mi senti? Adesso sì, forte e chiaro. Anda bene, dai, ho messo la piastra ben appoggiata e l'antenna, la base magnetica, un bombo. Ed è fuori. Tu mi ascolti bene? A bomba sei tu. E pure tu sei a fondo scala, da. Anda bene. Claudio, a te? 7, come quella grande. Adesso vai tu, gira gira, anda per l'antennino che la manna. Era già detto che è una bomba questa antenna. Quella della Comet, quella funziona molto bene l'antenna. Capito, Tony? Il pesto non ne hai tu pesto? No, il pesto non ce l'ho, ma se vuoi io... Domani ce l'ho già, il tiguglio. Il tiguglio stavo dicendo. Qualcuno ha detto che ce l'ha, il pesto mi serve se dobbiamo fare quelle pennette là. Capito? Mi serve il pesto. E niente, vabbè, poi la verdura già lo so che non ti manca. Niente, mi serve il pesto per fare due pennette. Se vuoi ti pesto io, Cla. Pennette ci sono, il pesto c'è e la grossola c'è. A posto, Cla. Ti becco un mozzichini, Cla. Se vuoi un mozzichini tu da voi. Che carivuccio. Il pesto, no, pizza a me, pesta di la bicicletta. Sì, ma il pesto quello già pronto, mi, quello che compri alla Cobe, che al coso, capito? Pesto, senza aglio, mi, se lo compri. Capa, ma io non che papire non ve ne so comunque, vabbè, comunque. Va bene, dai, non c'è problema, senza mancare il nabrusco. Senza aglio, senza basilico e senza pesto. Ma che cazzo, allora venuta. No, lui, perché lo fanno con l'aglio e senza aglio, capito? Solo basilico è più buono. Non ne metto aglio io. Perché poi c'è la gorgonzola e devo fare una cosettina di quelle sfiziose. Di quelle sfiziose. Prezzemolo fresco già ne hai, Tonino Carboni. Già ce l'ho anche quello, anche il lambruscone. E pevalone al naso. Soltanto devo sentire la ricetta. Adesso mi senti, Cla? Sì, sì, manetta, sì, Giulia. No, ce ne vuole peperone lì, Manuè, cos'è peperone? Poi mi dice avere le gente bianche. Io non la faccio a casa quella, si ne chiedi. Avanti, Giulio. Ehi, adesso sono in mostanza addirittura. Anzi, adesso parlo di ne ho due, no? Aspetta che... Vediamo un po' se mi senti con quest'altro. Io lo sento giù di adesso. Sì, però arrivi forte, più forte con l'altro. Lo so, con l'altro è più forte, sì, certo. Questo adesso, infatti, sto parlando di nuovo con quello. Oh, Tonino, mi senti? Sì, perfetto, Giulio. Tu mi senti a me? Sì, che ti sento, perfetto, perfetto, veramente. Molto bene. Ma tanto adesso sono nel Poggiolo, mi sono messo questa soluzione nel Poggiolo. E dunque mi sto ascoltando qua. E io ho messo l'antenino qua fuori dalla finestra, quella base magnetica, su una piastra e mi sento bene anche gli altri, meno male. Alla grande ti sento, veramente, radio 5 perfetta. Ho sempre flusciato io, Cla. Ma c'è ancora il sole, ragazzi, non è che posso stare molto a lungo qua, se ti massaggio, sono fuori nel terrazzo. Oh, Giulio! Ah, Giulio, ciao Giulio comunque. Cla, c'ho la 25 vicino, vuole sentire la ricetta? Cosa, Lu? Ho detto che vuole sentire la ricetta. Ehi, ciao Marie. Poi vi lascio un minuto che mi sta portando un po' di verdura il mio vicino di casa. Marie, metti una noccetta appena appena di burro nel tegamino assieme alla gorgonzola. Se è gorgonzola mascarpone è ancora meglio. Se quella piccante va bene lo stesso. E la sciogli tutta. La sciogli, deve essere proprio sciolta, amalgamata bene. Ok? E la lasci pronta. Quando è pronta la pasta, la riscaldi, perché altrimenti diventa dura, la riscaldi appena appena, il tegamino dove c'è la gorgonzola col burro, non molto burro, perché c'hai già il pesto che è olioso. La butti assieme alla pasta, la giri e poi ci metti il pesto sopra e giri tutto. O ci metti pecorino o ci metti parmigiano reggiano. Clama, io non uso burro, al posto del burro la faccio sciogliere con un po' di acqua di cottura della pasta, va bene? Un po' di olio. No, no, non ci mettere niente, già si scioglie. Se compri la gorgonzola mascarpone o se ti piace quella piccante, già scioglie lo stesso. Capito? Girala col cucchiaio, la gira, la fai sciogliere e la tieni pronta. Al momento in cui devi condire la pasta, riscaldala però. Capito? Una volta che poi l'hai buttata, pennette, non spaghetti, pennette, ci butti il pesto, giri tutto e ci metti un po' di parmigiano reggiano o pecorino. E poi lo butto alla finestra. Buonasera alla signorina comunque. Buonasera a tutti, grazie per la ricetta. La signorina, la mia 25 è Tony. E appunto lo so, ho detto la signorina, va bene la signora, coiuvato di sì. No, oh, va bene, no, ma non è signorina, signorina quando uno ha 30 anni, 25-30 anni, lei ne ha qualcuno in più. Già va bene lo stesso, dai, non ti preoccupare. È sempre signorina, ricordatesi, quando non è sposata è sempre signorina, anche se la tua 25. Oltre che a me, pure 50 anni, è sempre signorina. Va fino a 46 quasi, è da una 47. Quasi 48, dai. Però non si dice l'età delle signore. Beh, lo dico, mica te l'ho chiesto. È caffone. Scusa, mica te l'ho chiesto. Lo sto dicendo io. Oh, ma dimmi il dubbio. Oh, yeah. Vabbè, dai. Avanti, Giulio. Oh, vabbè che devo allontanare un attimino la radio, arrivo subito. Poi, Maria, limite, mi sento con Luca e te la do bene la ricetta, perché ce ne sono tante. Puoi fare anche gorgonzola e radicchio, che è favolosa. Favolosa veramente. Ci sentiamo subito che sto andando a ritirare la verdura al mio vicino, un attimo. Ok. Avanti Giulio, mi senti? Sì, che ti sento Luca, ho chiamato. Solo che adesso ho preso giù perché faccio un po' bene. Sole qua. Dai, mi sta fai. Ehi, dai, ciao Giù, salutoni, alle prossime, dai. Riprendi Tony. Sì, mo carica batteria, quando lo fai, ci sentiamo, stammi bene. Avanti Manuele. Manuele, non riprende, Luca. Sì, aia. Che apparocci, mi c'è un po' di lavoro da fare, stasera inizio qualcosa, là. Qualche soldino, ma non me lo metto in tasca. Lu, ricorda che sabato ti chiamo, eh. Eia, sono Crebusi, sabato mattina, prima arrivi meglio è. Io posso dire pure se in manzano, anche io mi bisogno di zinco, anche se non lavoro. Ah, vabbè, sì, no, ma è tipo, 8:30, 9, così, va bene, io la grande. Tranquillo, 100%, non c'è problema. Anda bene, ok. Comunque, sì, bel nome anche Maria, dai, complimenti. Marina, ma non gli piacciono queste cose, no? Ogni tanto così, uno sente a Claudio, mi. Poi ti ha voluto sapere un po' la. Se no non gliene frega niente, né di baracchino né di LPD. Dalla parte aveva ragione, intanto è un macello il tuo baracchino, ma carità, baracchino. Io non sto neanche più accendendo qua, entro qua direttamente, frequenza pulita, tranquilla. Prima andavi uno baracchino, ora giù quattro, e mi chiudo a fianchi. C'ho il 3009 a casa della mamma, che è abbastanza, insomma, non è nuovo, ma che graffettino c'ha. Abbiamo messo anche il LED blu nello smitter. Ma cos'è il Connex? No, il 3009, Superstar. Ah, no, io ho il Connex 4000 invece. Il Galaxy pure c'ho, ma mi pare me lo vendo intanto. Cosa me ne posso? Ne ho due baracchini, anzi tre. Non ne posso più venire, sto entrando solo qua e basta. Io ho due Typhoon, di cui uno qua, 200 più canali, e uno a casa, modificato Colt. Poi c'ho il 3009 e c'ho il Mobicom. Avuto. Poi non c'è mai nessuno, vedi. Io rare volte che accendo il baracchino, tanto. Accendo qua direttamente, perché di solito Emanuele oppure Claudio lo sento qua. E poi chiedo Giulio ogni tanto, Gio Maria, c'è anche Bachisio, insomma, Marino, c'è a venire niente rompi. Poi sono comprato Rosmetro, Wattmetro, quello, il Diamond SX200. Che fa UHF e VHF. L'ho pagato 92 euro, ancora in scatola, eh. Penso un po'. Ma io già ne ho di robettina anche qua, ma tanto non la sto neanche utilizzando. Forse ho fatto male, troppa roba faccio. E bene che la sbastisco, un po' di roba me la vendo, te non ne posso nulla. Ma. E poi c'è questo cavolo di lineare, porca miseria, che non funziona. Vabbè, lineare non ne ho. Ma per dire, non è che. Bah. Non è che mi domanda nulla, può ripostare anche lì, non mi interessa. Era giusto così, l'ho preso, ma poi alla fine, va. Allora, il lineare che ho io per l'uncio 31 praticamente funzionava che una meraviglia, se no che mi si è scoppiato il fusibile, si è rotto. L'ho dato a una persona, ci ha messo un filo di rame, si è andato una parte all'altra, una cazzata ha fatto, non so cosa ha combinato, perché il fusibile è proprio sotto la, dove c'è il sistema della valvola. Me, tutto a posto, sì, funziona, me lo metto, tutto staccato, no, agito. Me l'ha rovinato, vedi prima. Beh, scusa un attimino, cazzo, cioè, anche un più ignorante riesce ad arrivare. Se è partito il fusibile, un motivo, cioè, oltre che tu o chi, non so chi l'ha messo, no? Che ha fatto un ponte con un pezzo di filo, è proprio da ignoranti, E certo, perché più non c'è più l'amperaggio, facciamo un numero X, fa che a 2 ampere, diciamo, tu gli avrai messo 10 ampere, e così mi rovini tutto. Beh, se è bruciato il fusibile, un motivo, cioè, è normale, no? Non si fanno queste cose, a meno che ti si brucia perché era quasi andato e puoi fare un ponte e riprende a funzionare, come succede io per esempio nei baracchini, sbuccio un filo un filo elettrico, mi prendo un filino, gli faccio un ponte, se salta lo stesso, perché si scioglie, e me li aggiusto così, me li faccio io. No, ma il fattore non è del fusibile, perché il fusibile è sempre intatto, Luca. Allora, il fattore deve essere, siccome sai come è fatto, diciamo, il bruciato 31, la valvola rimane in alto, orizzontale, ed è una specie di castelletto, e tu devi smontare secondo come la piazzi, è incasinato tutto, lo so, per carità, una putta ce l'ho più di un mese e mezzo buttato per una parte, e vabbè, lui dice bravo, ma poi casinita, tu lo contenti, glielo dai la roba e poi invece non è così. Ma comunque vabbè, in questi apparecchi dovrebbero metterlo fuori il fusibile. Non fai altro, vuoi svitare nel fusibile, no, all'interno, va, è arrivata una gaggata. Sì, in effetti così, all'interno. Che c'è la valvola, c'è questa specie di paretina piccolina, c'è quello stampato, poi c'è la valvola che è orizzontale, incastrata, è un casino. Cambiare il fusibile che all'interno devi smontare mezzo mondo, anche la valvola. Vabbè, si può fare. Si può fare, come? Ci sono, li vendono quelli a mettere esterni. Lo smonti e lo metti esterno, fai un buco dietro e è risolto. Invece di stare ogni volta a smontare tutto. Non è facile, se no si può fare tutto così. Porta possibile, già le vendono quindi. Andà bene. Manuè, ci sì. Sono rientrato. Io c'ho un caldo e troppo mi accompagno. Rosa Baessa, accompagno, così. Mi ho preparato anche la cenuzza, bella leggera, guarda, con una bella insalata con pomodoro, citrio e cipolle e cimenta. Allora ti tieni leggero stanotte? Sì, leggero, io l'auto voglio dormire leggero. La mattina poi si va a lavorare. Domani mi finisco quel lavoro che ho iniziato lì alle 10:03. È quasi tutto fatto. Ok, un lavoro straordinario, e ce lo fanno fare lo stesso, già paga la provincia. E poi quella roba là, Tony, il dottore te l'ha dato? Sei dimenticato, quando l'ho telefonato dice porca miseria, sono dimenticato, domani che vado in laboratorio, cioè il coso, me lo fa. Glielo faccio in bustino e la faccio come vuole, anzi la bustina è meglio perché lascio quello nell'acqua e riesco a prenderlo tranquillamente, perché le pastiglie a me già ne piglio troppo pastiglie, per carità. Sì, sono uguali, ho pastiglio in bustina, sono uguali. Sì, ma in bustina detto che sono 30, non so più 40. Ma in bustina sono di più? Di meno, le pastiglie sono 40, le bustine sono 30. E allora fate le pastiglie. Adesso vediamo. Ma io l'ho già detto, vabbè, come vuole, adesso bisogna vedere cosa mi mando domani. Se sono 40 andare, lo so, ma non è. Adesso vediamo cosa mi mando domani, via mille. Infatti della zittendi, ha giovato, se ne è dimenticato. No, mi sono cuccato, che ero tutta la mazzano inginocchiato lavorando, perché la canaletta l'ho fatta lavorare sopra il battiscoppa. E poi anziché fare il col trapano, niente, tutto a silicone, fatto asciugare bene, poi passare il cavo, pacare dai, e vabbè. Hanno voluto 4 prese, che ogni scatola esterna 503 ci sono 2 prese, la P30 e la B passo, quindi automaticamente tanti fili che entrano e escono, un casino. E vabbè. Meno male che hai fatto la compuntura, che stavi bene. Iniziamo il discorso che è meglio. Luca, riprendi. Eiaia. E vabbè, dai, in questi giorni, perché ho preso l'antibiotico, la maliziana ce l'ho di meno, dai. Però quando mi prende non riesco manco ad alzarmi dal letto, Tony. Boh, non so se, se conviene fare questa compuntura, cosa dici? Non fa nulla che so dire a lampatti. È un palliativo. Soldi nero che si caccia ghiccio. Insomma, ti mantiene un capo, ti mantiene dei piedi, ti senta sti qua con la bacia zicca all'acqua. A me mi ha fatto sudare freddo, io ce l'ho tiro sudendo, ma carità, ma perché c'era caldo, ma... No, guarda. Allora ti spiego il perché, un po' mi sono sentito bene, sembrava tutta la suggestione, ma anche uno piccolo particolare. Lui mi ha messo questa specie di cuscinetto a gomma di cammello dietro la testa e uno sotto il bacino. Sai cosa ho fatto ieri notte io? Io c'ho un piccolo qualcosa che tipo sabbia eccetera, me lo sono messo sotto il bacino e mi guardavo la televisione, sono stato più di mezz'ora. Ma ci credi, quando l'ho tolto poi mi sentivo bene? Quindi quello lì cerca di entrarti lì nel disco un po' dentro e quindi ho sentito un piccolo sollievo. Anche in puntura la gabbia. Allora, se ce l'hai ti rimane. Quello serve per confondere il cervello per il dolore. Boh, non è altro. Ma infatti, no, la pastiglia di Nagusi no, già non ha giù, cazzo, è un po' di Nagusi. Ma poi si vira giù da soli me, non avevo da all'altri, no, sono giù compreso. No, ripeto, adesso perché ho fatto questa, insomma, sono caduto, non si è visto su Facebook, sono scivolato su quella faccia a terra a Fragosto. Grazie a Dio, ma già sono guarito, dai, mi è rimasto il dolore alle costole. Cioè che devo prendere l'antidolorifico, ma non lo sto prendendo, è sopportabile ancora. Però se schiaccio fa male, vabbè, comunque niente. Quando ho fatto questa cura antibiotica, tu dirai, ma sono una gazzata, ma diciamo ce l'ho molto molto meno. Beh, vedi, è una cura antibiotica di medicine, giustamente. Le cose sono due, Luca, o le medicine o l'intervento, non esiste altra cosa. Ma di agipuntura senza medicina ti mantiene un cabusi, a me ero scettico, faccio più scettico di prima, la compiti. Ma infatti, tutti una lampada alla fine, là. Sono soldi buttati, no, non conviene, già non vi ne di no, per carità, no. Lascia perdere, era giusto per sapere, siccome c'è gente che l'ha fatto e mi è passato mal di schiena, ma mi balistano. No. Poi questo qua prima veniva a Sassari, noi ci abbiamo la sfortuna di andare a Bono, che sono 75 km. Comunque Riferrà fa più di 150 km ho fatto, tra andare e tornare. Andate un po' tranquillo, piano, che la macchina mia è vincia. Col rischio, infatti, ho detto io a Emanuele, speriamo che di andare e tornare con la macchina e non trovare a piedi. Cioè, più di pagare in nero a chi manco di tutto ha fatto. No, la Gabombigli. Che insomma è proprio... E l'ultimo non dice, questi sono quanti diplomi c'aveva? No, quelli sono attestate, c'è qualche diploma, sì, ma io con 100 euro, non ho proletario, devo sapere, tutti i diplomi sono diventati burizzinieri, per dirti no, quelli sono buoni tutti a farli fare, ma mi tappezzo la camera qua, oh! Ehi! E me? Via Gio Maria! Ehi, Saulo, buonasera! Buonasera anche a Tonino e a Manuele. E bello! Ah, già mi senti, sì! Cazzo, ti sento sì, ancora io sento più bene, va. No, bene bene, ma ti sento. Ah, mezzugai, avanti Tony. Gaffa, ciao Giomari, ben sentito. Bene, qua mi sta chiamando la mia metà e niente, devo accompagnarvi, dai. Io vi saluto, se ci sentiamo dopo cena, se ci siete, va bene. Ciao Giomari, ciao Luca, saluta mia Maria, o Marina, e ciao anche a Emanuele. Cuore tango da parte mia, anche da una compagnia, e poi quando torno magno e dopo cena dietro. Riprendi Luca, alla prossima, ciao. E allora, ciao Tony, anche a te, salutoni. Allora, anche io chiuso perché mangio e poi vado a fare, devo andare al lavoro, là. Devo lavorare, anche di notte. Dai, mio Mari, ti saluto, grazie per essere entrata a salutare. Riprendi tu, io chiudo, c'è anche la batteria scarica. Buona cena e buon tutto e salutoni in famiglia. Ok. Ciao Lu, buonasera, ben sentito, saluta anche a Marina. Ciao Tony, altrettanto, buonasera allora, alle prossime. Ciao, Manuel, ciao. Ciao Tony, ci sentiamo, dai. Cingo! Ehi, Gio Mari, che beh? Sì, me, sempre a quelli del Biuvaro sono i rocchi. Sono che me sono Biuvaro, ma non è. Ehi, ma non posso immaginare, e beh, quando si fanno quei lavori lì è normale che la polvere esce. Ah, che si chiude le porte e passa, Cazzo, va a fare le gambe, a fare le fasi in bietai, da per tutto. Dice, le sono andate alle 5. E ho finito, va. Noi che mi lascia cavare tutto il Biuvaro, Sidney. E domani comincia a tornare lo Biuvaro, per carità. Ma adesso cosa hanno fatto? Hanno fatto tutto l'impianto della rubinetteria. L'avevo smantellato tutto. Adesso oggi hanno terminato tutto l'impianto. Ma un tubo solo c'è rimasto, quello dell'acqua calda per il lavandino di cucina, e dopo cominciano a fare il mazzetto, capito? È un casino, veramente, troppo. Sono bravi, stanno facendo anche in fretta, però è normale che la polvere passa da una parte all'altra. Poi con questo caldo è peggio ancora, capito? È peggio ancora, sì. E peggio ancora sì, Gio Maria, ma però bisognava farlo. Da buri, quando è finito si buri. La polvere è normale, quando si fanno quei lavori lì è normale che la polvere entra da tutte le parti. Io non ne posso vedere più, Valo, Però mia, tu sei per te, l'accogliete, cazzo. Però tutto quanto lo per la fai, no? Ma che fai un mezzo roba in mezzo, cazzo, lo sai, l'avremmo capato tutto, per cui tutte le due camere proprio piene, cazzo, di cose, cazzo, un casino, niente. Però sta, me l'ha giubilito un po' careggio, per cui va per domani si pensa, un poco domani, piano piano già le fanno le cose e poi ce le puliamo, dai, con la calma. Sino a fine misurati finiamo in 2-3 dì e ce la putti, non si comanda nessuno. Sì, vedrà che a venerdì sia un buon punto, dai. Poi quando hanno fatto tutta la tubazione, tutto quanto, dello scarico del gabinetto e via dicendo, poi a fare il pavimento, svimone nei due dì, un giorno, due giorni ti fanno sia pavimento che placcaggio, secondo quanti sono. Certo. Ma tu non puoi mangiare, non capisco, tutto il piatto vecchio che fai, ragazza. Pare così, ma finire a garraggio, un bel. Cazzo, a farsi la giossa, a casaro, noi che vi siamo molto cari, che ne caruccia. Due secchi si rifarava, a casa sera ti rifare l'anima, ti rifare, però, cazzo, giovani, per cui, capito, già la buona fai il travaglio, va. Lo possono fare, sì. Sanno che non hanno messo la canaletta, mettevano una canaletta per rottame, solo che il bagno tu ce l'hai, dove ce l'hai tu il bagno, Giovanni? Dalla parte dove ce l'hai ora? Infatti, a parte di dietro, capito? No, non viene bene, no. Oh, no che non viene bene, che sì, allora, cazzo, vivo un mezzo, o cazzo, a caricarli un mese, però sicuramente non puoi venire la canaletta, poi a secchi a secco si rubano la strabassi, no, capito? È una baraola, perché sto per diversamente. Poi non si vuole bere ma con la carro qua che va giù, con la verandina con due sportelloni scorrevoli, non viene bene almeno a mettere la carrucola, capito? Così che fai forse da stare e farà con i secchi da cara. Vabbè, ma quanti sono? In due sono. Il maestro, lui c'è il maestro. Il maestro è un maniare, ha già un preso. Infatti, allora. Beh, è bravo anche il manovale, anche il manovale è bravo. Le cose, però già si dà di chi fa, dai, e ripeto, adesso domani mi fanno le, come si chiama, quando mettono quel tubo, e poi faranno il mazzetto, e dopo magari copriranno anche le tracce, capito, hanno fatto il casino, perché la cassetta è a muro, cioè, se poi si fascia lo muro, pure la cameretta se hai fasciato a chi sono da zinco, chi si volatile, che hanno fasciato il muro a, la cassetta a parte di da rete, della cameretta. E beh, perché sono andati oltre il forato, oltre il buco del forato, perché tu se passi oltre il buco del forato esci dall'altra parte, sono forati da sì, mi sembra. Infatti, per forza non la metto uscire, se no non vi casia, no, capito? Perché infatti la rigio hanno già posto la retina e da voi il buono intonaco, capito? Sì, dai, già è un buon punto. Quando fanno tutti i collegamenti dello scale, la braga del gabinetto e tutto quanto, dopo a tappare, a fare l'impresa. Già sto camminando, già. Adesso già te lo dico, lui ci scatta. E per cui... Io sto camminando, là. Non c'è bisogno che ho fatto tutti questi cose, capito? Anche da voi la cosa deve lasciare asciuttarla un poco, capito? Andare, dai, già sarà un buon punto. Hai testore, cazzo di vincitore. Ehi, già lo sto ascoltando. E te, e bacchi il lupo.